nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Ogni settimana, lo sapete, raccontiamo il mondo del lavoro visto attraverso problemi, soddisfazioni, curiosità delle donne che ci stanno dentro. E ogni settimana, un po' ripetitivamente, ma volutamente ripetitivamente, ricordiamo prima di tutto a me che il multitasking è una fregatura. Perché? Perché ormai da tanti anni ci siamo convinte che noi donne siamo super, possiamo fare tutto, possiamo farlo bene, occuparci del bambino che non va bene in latino e occuparci del marito che ha la crisi della mezza età, occuparci della collega che si sta separando e occuparci della nostra mamma che perde colpi perché è anziana. Tutto insieme al meglio e cercando anche di essere impeccabili con tacco 12 e rossetto smagliante. No, ogni tanto, almeno la domenica, soprattutto ricordiamo a noi stesse che vogliamo fare una cosa sola e per questo il multitasking, come dice anche il neuroscienziato dell'MIT Earl Miller, fa male al cervello ed è una fregatura. Fare una cosa sola e farla bene non significa però rinchiudersi nell'alveo delle professioni cosiddette un tempo femminili. È vero che soprattutto negli Stati Uniti qualcuno sta individuando la tendenza a far tornare alle cosiddette professioni femminili, gli assistenti sociali, insegnanti, babysitter, gli uomini che prima per decenni le hanno disdegnate. Si tratta di una tendenza che è stata testata da una ricerca pubblicata dal New York Times. Tra il 2000 e il 2010 il numero degli uomini che si sono cercati un lavoro nei settori tradizionalmente femminili è raddoppiato. Sarà un effetto del cambiamento di mentalità o un effetto della crisi, chissà. Noi però oggi vorremmo guardare l'altro aspetto, quello anche questo in crescita, delle donne che invece stanno occupando settori tradizionalmente maschili. Giorni fa Kate McWilliams, 26 anni, la più giovane o tra i più giovani comandanti di aereo del mondo per la compagnia EasyJet, ha detto in un'intervista che hanno cercato in tutti i modi di farle fare dell'altro, di orientarla verso professioni considerate più femminili. E lei invece, caparbiamente, ha detto no. E allora, se negli Stati Uniti dal 2000 al 2010, come dicevo prima, è aumentato il numero degli uomini che si sono cercati dei lavori tradizionalmente considerati femminili, far l'insegnante o il babysitter o gli assistenti sociali, aumenta anche, lo diciamo, e con soddisfazione di moltissime, quello delle giovani donne che invece fanno i comandanti di aereo, l'ingegnere e professioni considerate un tempo esclusivamente maschili. Ci guadagniamo, ci perdiamo, non lo so, io non ho un'opinione su questo, ma sono certa che un'opinione ben definita ce l'ha il nostro agente provocatore di questa settimana, Massimo Fini, giornalista, scrittore, che dal 29 settembre è in libreria con La modernità di un antimoderno, tutto il pensiero di un ribelle, pubblicato da Marsilio. Allora, buona domenica Massimo Fini. Buona domenica a voi. Un ribelle come te, cosa pensa del fatto che le donne, soprattutto devo dire le trentenni, ma non solo, stanno esplorando con successo professioni un tempo esclusivamente maschili? Citavo la comandante di aerei che ha appena 26 anni, Kate McWilliams, ma ci sono tante donne ingegnere nelle facoltà di ingegneria e in tanti altri lavori. Ci guadagniamo o ci perdiamo secondo te? Ma guarda, mi spiace deluderti, ma credo che da una parte, cioè il problema è che la donna ha qua quando fa un lavoro di un certo tipo, quando fa la manager, quando fa appunto, come dicevi, ha il problema di conciliare questo con la famiglia, cosa che l'uomo aveva meno. E quindi da una parte forse ci guadagna, ma da una parte ci perde. Comunque c'è un aumento di stress indiscutibile. Infatti tu notavi che le donne che hanno voluto entrare nel mondo del lavoro maschile ne hanno assunto tutte le caratteristiche negative, fumano, bevono, cioè siamo più fragili, meno capaci di reggere lo stress, secondo te? Gli vengono le stesse malattie, cioè una volta una donna, l'infarto era un fatto tipicamente maschile più che femminile, no? E gli vengono tutte le patologie del maschio ugualmente in carriera. Ripeto, sono messe di fronte a una scelta. È difficilissimo conciliare, credo che tu lo sappia bene, conciliare lavoro, soprattutto a alto livello, con famiglia, a meno che uno non sia ricchissimo e abbia milioni di tate. Quindi, secondo te, a un certo punto della carriera la donna deve porsi, darsi una risposta: voglio andare avanti e, per esempio, rinunciare a sposarmi, rinunciare ad avere una famiglia, o voglio fare la famiglia e quindi rinuncio all'altro pezzo di carriera? Cioè, secondo te siamo costrette in ogni caso a una scelta, cosa che non si pone per gli uomini, per esempio, che sì, possono avere tutte e due? Costrette in senso assoluto no, però in senso abbastanza relativo sì. Cioè, per esempio, c'è una branca che si chiama coaching aziendale, che è diretta soprattutto alle donne, nel tentativo di... Il coach cerca di permettere alla donna di conciliare questi due termini, insomma, ecco. E lo sappiamo però, bene, perché ogni settimana ospitiamo la coach qui. Proprio nel tentativo, nella speranza di essere utili alle donne che ci ascoltano. Io sono anche curiosa di valutare, come vedi tu, da moderno antimoderno, questa stagione che stiamo vivendo. È una stagione appunto piena di contraddizioni, non soltanto nei rapporti uomo-donna. Mi piace segnalare che, per esempio, in Inghilterra c'è un movimento che si chiama di uoministi, che sta facendo a meno dei rapporti con le donne in generale, quindi sono contro il matrimonio, non sono gay, scelgono semplicemente di fare a meno delle donne. Allora, il tuo saggio, La modernità di un antimoderno, valuta anche come stanno cambiando, come sono già cambiati i rapporti uomo-donna? Diciamo, tratta della sorte dell'umano genere in generale, e quindi non in particolare del rapporto uomo-donna. Questo lo faccio in altri libri. Comunque, tipo il dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina, certamente comunque è un'armonia complessiva che donne e uomini hanno perduto. E poi c'è questo aumento vertiginoso dell'omosessualità, sia maschile sia femminile, che la dice lunga sulla difficoltà oggi del rapporto fra uomo e donna, anche perché molte omosessualità, poniamo maschili, sono di ritorno, cioè sono omosessualità derivate dal fatto che la donna noi oggi per noi oggi è troppo aggressiva, cioè già è più forte antropologicamente, perché lo è fisicamente proprio, e anche mentalmente a mio avviso. E in più è aggressiva, uno scappa. E però dall'altra parte c'è lo stesso problema, nel senso rovesciato però, questo lo dico per esperienza anche diretta, ho molte amiche che hanno 35, 40 anni, insomma nell'età migliore, non riescono a trovare un partner perché l'uomo si è troppo femminilizzato. Va nelle beauty fame, si crema, si depila, io non credo che un tipo così piaccia dal punto di vista sessuale alle donne. Quindi... Però io mi metto dalla parte di chi ascolta il tuo punto di vista e dice questa è la fotografia di due mondi che non si parlano, donne troppo aggressive, uomini che scappano, femminili, che sì. scappano, che appunto decidono come il movimento che citavo prima in Inghilterra di ritrovarsi tra di loro perché si sentono più a loro agio, più confortati. Questa è la fotografia di due mondi che non si parlano e a questo punto gli effetti, parlo anche come dire di ambienti di lavoro, non soltanto di relazioni affettive, gli effetti saranno problematici. La cosa che mi colpisce però in questa tua fotografia è che dopo 30 anni in cui discutiamo di parità tra uomo e donna, di fare le cose insieme, siamo arrivati a un punto in cui invece non ci parliamo proprio. Sì, tieni presente che il tutto ha anche un risvolto, in fondo che male c'è se ognuno poi segue i suoi gusti, star da solo, non avere rapporti con le tipe o viceversa, però c'è un'importanza sociale, nel senso che in tutto l'Occidente la natalità è a bassissimi livelli, mentre quegli altri, quelli che temiamo tanto, fanno figli come conigli. E quindi quando la ministra, molto contestata, secondo me scioccamente, fa un discorso sulla natalità e poi viene beccata per scioccamente contestata o scioccamente fa il discorso sulla natalità? No, scioccamente contestata. Secondo me. Cioè, non è perché uno è del governo Renzi, da molti detestato, anche da me, che poi tutto è sbagliato, insomma, secondo me è un... Quindi il Fertility Day ha un senso, sì. E tutto questo nostro gran discutere di professioni femminili fatte da uomini e professioni maschili che si aprono alle donne, in realtà copre, se capisco bene il tuo pensiero, un dato molto più concreto, è che uomini e donne in ogni caso si parlano poco, si incontrano meno e figli non ne fanno, è così? Sì, perché nonostante alcuni algoritmi tecnologici che si possono permettere pochi individui, i figli continuano a nascere come sono sempre nati e a essere, diciamo, procreati come sono procreati dall'alba del mondo. Quindi salutiamoci, ricordiamo la modernità di un antimoderno, il nuovo saggio di Massimo Fini pubblicato da Marsilio, appena arrivato in libreria, e con una risposta che ti chiedo sinteticissima alla Kate McWilliams, tra i più giovani comandanti di aerei nel mondo, e a tutte le giovani donne che non hanno paura di fare un lavoro maschile perché è il loro lavoro, è la loro passione. Che messaggio mandi? Ma io mando un messaggio positivo, nel senso che piacerebbe anche a me fare il pilota d'aereo, voglio dire. Grazie a Massimo Fini e buona domenica. Grazie a te. Grazie. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo, lo sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. È benvenuta ed è veramente benvenuta, è un gran piacere avere con noi Ambra Angiolini. Buona domenica, Ambra. Ciao, buona piacere, domenica. Il piacere mio anche di essere chiamata girl. Eh certo, noi siamo sempre girl. Che bello. Ambra è al cinema con Al posto tuo di Max Croci, un film in cui due colleghi di lavoro diversi, che più diversi non si può, si scambiano temporaneamente le vite. Uno è un affascinante single, Luca Argentero, e l'altro, Rocco Fontana, è sposato con te, con Ambra, ha tre figli, una casa in campagna e perennemente a dieta. Uno è estroso, l'altro invece è solido, e hanno in comune il lavoro. Siccome il lavoro è il tema, il fil rouge sempre di queste nostre trasmissioni, intanto ti chiedo, l'idea dei due uomini che hanno appunto al centro il lavoro, mentre tu nel film sei la moglie, ti disturba un po'? Volevi essere tu una delle donne che si pongono il problema di scambiarsi la vita con un'altra? Ma siccome sai, il cinema come, cioè, racconta il quotidiano, ma anche sì, la finzione, è chiaro che gliel'ho lasciato fare perché era un film. Se fosse stato nella vita vera avrei avuto più problemi, ma non per questioni di affermazione, cioè, perché mi piace lavorare, è un qualcosa che mi riguarda. E nel film però comunque, nella mia, cioè nel mio raccontare Claudia Casalinga, ho deciso di mettergli addosso un lavoro che in realtà vedo fare tanto, che è un lavoro che si può fare anche a casa, che è quello di vendere dei bijou che lei realizza con che ne so, le spugne dei piatti che non usa più o i tappi delle bottiglie, che vende facendo queste riunioni a casa. Mi sembrava interessante raccontare una cosa che io vedo sempre di più nelle famiglie, che devono arrangiarsi. E non è solo una questione economica, è anche una questione di avere una propria gratificazione al di là del lavoro domestico di madre e di moglie, che è un lavoro che può dare molte soddisfazioni, ma anche parecchie frustrazioni, diciamo la verità. Sì, noi, casalinga, quella giusta, di solito è un artista, perciò la mia Claudia è proprio quella cosa là. Ma a novembre tu sei in un altro film, 7 minuti di Michele Placido, la storia di 11 donne alle prese con la perdita del posto di lavoro, che è un tema purtroppo di grande attualità. Che cosa saresti disposta a fare pur di mantenere un posto di lavoro tu? Ma io sono un po' come nel film poi raccontiamo, cioè una di quelle donne che cerca sempre di svegliare coscienze, cioè mi sembra più giusto lavorare in gruppo, pensare in gruppo, ricordarsi che siamo tante, soprattutto nel film di Michele questa è un'esigenza che ci viene richiesta, perché a prescindere da ciò che non possiamo risolvere da sole, poi c'è un nostro modo di pensare da qualche tempo che giustamente è: mi guardo il mio e guai se qualcuno interferisce con questa con questo aspetto della vita, perché mi sento più protetta, e l'egoismo purtroppo nel lavoro non funziona sempre, o perlomeno non funziona più. Più fragili, anzi. Non solo, ma si pensa di essere più furbe o più furbi appunto preoccupandosi solo del proprio orticello, poi invece le situazioni ci raccontano di quanto nella storia sia stato fatto da gente che ha deciso insieme di andare contro leggi sbagliate, cioè, poca dignità sul posto di lavoro. E in questo film proprio si chiede a queste operaie di cominciare a ripensare al concetto di noi insieme, cosa possiamo fare, non io da sola. Ecco, penso che l'idea dello slogan di Hillary Clinton, Stronger Together, più forti insieme, riguardi un po' tutti. Senti Ambra, ma siccome il filo conduttore di questa nostra puntata è quanto sia difficile per le donne affermare in una professione maschile, il nostro agente provocatore poco fa, Massimo Fini, diceva: guardate che poi, quale che sia la carriera, se è una carriera di grande successo, a un certo punto una donna si trova di fronte a un blocco e deve scegliere o la famiglia o il lavoro. Tu ti sei mai posta di fronte a questo dilemma e hai passato notti insonne dicendo: no, io smetto di fare l'attrice perché mi devo occupare dei miei figli piccoli? No, perché l'ho sempre considerata L'altra cosa che avrebbe potuto completarmi, non credo sia così per tutte, ci sono anche donne che l'esigenza di diventare madre non la sentono, io sono d'accordissimo anche con loro. Per me era necessario e non volevo perdere anche l'altra parte di vita che mi ero conquistata, per cui quando qualcuno mi diceva ma adesso coi bambini, rispondevo non è un problema tuo, visto che tanto non me lo puoi risolvere, ci penso io. Ho cominciato a guidare tantissimo, essere bravissima, mettermi in macchina, tornare a casa, cercare di essere quattro persone insieme, tanto bipolare probabilmente lo sono già, quindi mi sono attrezzata. Quanto il multitasking occupa la tua vita? Noi qui cerchiamo di ricordarci che è una fregatura, perché il fatto di voler fare tante cose insieme, di pretendere che vengano tutte perfette, ci carica di uno stress tutto sommato irragionevole. Tu sei vittima del multitasking, di' la verità. No, non ne sono più vittima, perché ho ammollato la faccenda del dover essere giusta, perfetta per tutti. Qualcuno dice anche che sono una stronza, a me va anche bene, cioè io vivo la mia di vita e non chiedo a nessuno di risolvere i miei casini. Quando lavoro so che sono precisa con i miei figli, cioè chi quale madre è perfetta o nessuna, nasce perfetta, come dice questa trasmissione, no? Nessuna, esatto, è perfetta. No, ma è molto saggia questa cosa qua, ed è l'unica cosa che a quasi 40 anni ho voglia di tatuarmi, io che tatuaggi non ne ho. Quindi me la vivo molto meglio che di tu prima. Ti stia tatuando, nessuna è perfetta. Ci piace molto. Quando lo fai, dicelo, che ti veniamo a cercare di nuovo. Sarebbe, come dire, il sistema per vivere più sanamente. L'ultima cosa che vorrei chiederti, Ambra, è: molti uomini oggi dicono, non so quanto sia vero, di essere disposti a prendersi cura dei figli. La frase è: ma sto io a casa, se guadagni tu. Quanto c'è di vero in tutto questo, quanto è una moda? No, io devo dire che questa cosa mi ha anche fatto venire i brividi ogni tanto, perché vedo una voglia proprio di, anche un po' paracula, no? Di accomodarsi laddove, come a dire, avete tanto fatto casino, adesso andate a lavorare voi, che a casa male non si sta. Poi bisogna vedere alla lunga, no? Come tutte le cose appunto che sembrano funzionare solo perché vanno di moda, ecco, vediamo questo effetto dei nuovi mammi, probabilmente lo capiremo tra una decina d'anni, quando, non so, usciranno casalinghi depressi o repressi e verranno raccontati nei film, nelle canzoni. Per il momento siamo ancora noi le protagoniste di quelle scene isteriche, perciò mi accorgerò degli effetti di questa nuova moda probabilmente tra una decina d'anni. Lo scopriremo vivendo con te. Allora io ringrazio Ambra Angiolini, al cinema con Al posto tuo di Max Croci, e buona domenica. Grazie a te, Maria, e a chi ha seguito questa intervista. Grazie. Grazie. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e questa domenica a scriverci è una studentessa che non ha nessuna intenzione di rinunciare alle sue passioni solo perché le viene detto che sono passioni da maschio. Vi ricordo che potete mandarci i vostri tormenti professionali o i dubbi, le questioni, tutto quello che attiene al vostro rapporto col lavoro, indirizzando a nessunaeperfetta@radio24.it e potete commentare con noi su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta o su Facebook, naturalmente. Questa è la lettera di Giulia. Sono una studentessa dello scientifico di un paese della provincia di Catania. Ho un fratello maggiore che mi ha trasmesso la passione per i motori e che in parte ha contribuito a quello che oggi è il mio sogno, progettare automobili. Non le dico quando l'ho detto ai miei genitori. Mia madre, insegnante, non si dà pace. Continua a ripetermi che non è un lavoro per donne, che mi complicherò la vita e che difficilmente riuscirò a conquistare stima e rispetto da parte di colleghi maschi da cui sarei inevitabilmente circondata. Lo chiedo a lei perché non ho nessuno con cui confrontarmi. Nel 2016 non è triste dover ancora sentire parlare di lavori femminili e di lavori maschili? Giulia. E io, cara Giulia, giro la domanda e anche la curiosità di capire quali difficoltà, se davvero, cioè, tua mamma non ha ragione, la giro ai nostri due esperti di questa settimana. Mirna Marini, ingegnere aeronautico, responsabile della manutenzione di Basel all'Italia. Buona domenica, ingegnere. Salve, buona domenica. E Gianni Conti, executive chef al Grand Hotel des Îles Borromée a Stresa, un settore, quello della grande cucina, che è sempre stato considerato il regno degli uomini. Buona domenica, Gianni Conti. Buongiorno e buona domenica a voi. Intanto comincerei dall'ingegnere Marini. Quanto ha ragione la mamma di Giulia quando le dice: se vuoi fare un lavoro da uomo, progettare automobili, sarai circondata da maschi e sarà molto più difficile per te ottenere rispetto? Quanto ha ragione e quanto ha torto? Ma ha sicuramente ragione nei fatti oggettivi, quindi in un mondo prevalentemente maschile si è prevalentemente, se non esclusivamente, circondati da uomini. Per il resto mi sento di fare il tipo per Giulia e confermare con la mia esperienza che se si vuole, se si ha la capacità, non ci sono ostacoli insormontabili, anzi direi che gli ostacoli si sgretolano molto rapidamente dopo. Lei, ovviamente, sgretolati da ingegnere aeronautico, avrà avuto tutti gli altri ingegneri che la guardavano con sufficienza, ma anche i tecnici. Come c'è riuscita a sgretolare questa diffidenza? Posso dire che nella mia esperienza questo impatto è stato veramente del primo momento, più che altro di curiosità, più che altro di novità, quindi di un po' di diffidenza forse sì, sotto i baffi, però in realtà non è stato assolutamente difficile smuovere la convinzione, perché poi ci si afferma con il proprio lavoro, con la propria capacità, se c'è, perché essere uomini o donne non fa differenza se la capacità c'è. E quindi nella mia esperienza non sono questi gli ostacoli che si incontrano sul cammino, quando il cammino è un cammino professionale convinto, serio, impegnato. Poi lo scetticismo degli altri è solo veramente del primo momento. Questo è un punto, ed è un punto che dà ragione più a Giulia che alla sua mamma. Io conosco, Gianni Conti, delle giovani donne che si sono appassionate alla cucina e stanno cercando di fare il percorso che ha fatto lei con successo, è arrivato a essere chef al Grand Hotel des Îles Borromée. Però anche da quello che vediamo, per esempio, trasmissioni come MasterChef, il vostro mondo è un mondo molto maschilista, molto duro, volano davvero parolacce e giudizi severi all'interno di una cucina. Secondo lei una donna chef ottiene il rispetto che è indispensabile per far marciare rapidamente il vostro mondo, cioè la cucina di un grande hotel, di un grande ristorante? Ma diciamo che le donne brave ce ne sono tante, ma sono più nei ristoranti che negli hotel. E la differenza, come dice lei, è perché nei ristoranti le brigate di cucina sono più piccole e sono molto più facili da gestire, mentre nei grandi hotel tipo dove lavoro io le brigate sono molto grosse, molto numerose, per cui lì, se uno non ha molto polso, molta esperienza, forse anche più della tecnica di base di cucina, è difficile farsi rispettare e fare in modo che tutta la brigata funzioni alla perfezione. Quindi diciamo la verità, una donna chef che deve guidare, non so quanti siete voi lì? Adesso qui noi siamo 18-20. Ecco. Ecco. Lei dice, almeno per il momento è più complicato, è un mestiere... che è più complicato, è più facile se hai 6-7 persone da gestire che non... Perché il mondo della cucina, il mondo degli chef è così duro? Cioè non solo si lavora molto, questo non spaventa certo le donne, ma può dar fastidio il fatto che ci siano non si facciano tanti complimenti, ecco. No, complimenti, vabbè, sì, adesso magari a volte in televisione esagerano un po', perché ci sono dei momenti in cui c'è molta tensione, quello sì, ecco. E bisogna avere anche molto carattere. Quando si è sotto pressione, soprattutto nel momento del servizio, bisogna agire in quel modo. E insomma, chi è dall'altra parte che deve cucinare, tipo le donne, vanno via molto bene. Quando invece sei tu al comando di una brigata e devi dare gli input a chi fa i primi, chi fa gli antipasti, chi è i secondi, se non hai una bella presenza, un bel polso, diventa molto più difficile. Io immagino valanghe di potenziali donne chef o donne chef che non saranno per niente d'accordo con loro. Ricordo che possono commentare quello che stiamo dicendo scrivendoci appunto a nessunaperfetta@radio24.it. Senta, ingegner Marini, lei ha una bambina piccola, se non sbaglio. Ecco, 9 anni. Il nostro agente provocatore Massimo Fini sostiene, l'abbiamo sentito poco fa, che prima o poi la carriera di una donna è costretta a confrontarsi con la questione della maternità e dunque a un certo punto anche le carriere più brillanti sono poste di fronte a una scelta: seguo i figli oppure continuo nel mio lavoro. È vero? Ecco, quando parlavamo degli ostacoli, in effetti questa è una verità e gli ostacoli arrivano davvero via via che nel percorso professionale si cresce, le responsabilità aumentano, perché del resto non spaventa niente, diversamente da come magari può pensare lo chef, in realtà le donne sono apprezzate non solo per le capacità tecniche, anche in un settore molto maschile, molto tecnico, ma proprio per il contributo di sensibilità gestionale, organizzativo e anche per il polso che riescono a mettere nella guida. Però quando poi si fanno i conti con tutte le dimensioni della vita, e quindi non solo quella professionale, ma in simultanea con quelle di una casa, di una famiglia e di figli, lì il percorso diventa veramente accidentato. E quindi andare avanti è una battaglia quotidiana seria e difficile, e che veramente soltanto mettendo in campo molta determinazione, stringendo i denti, si riesce a portare avanti, almeno se vuoi esprimerti in tutte queste dimensioni nello stesso modo, con risultati, con presenza, con capacità, e non accetti il compromesso da nessuna parte. Questa è la sfida vera, è assolutamente una verità. Senta, Gianni Conti, lei ha famiglia? Sì, sono sposato, sì. Ha figli? Senza figli. Sì. Senza figli. Quanto tempo dedica al lavoro e quanto alla vita familiare? Ecco, e qui il punto dolente anche per le donne quando si sposano, che hanno dei figli, e perché le ore che si fanno negli hotel sono tantissime, si finisce sempre 10:30, 11, 11:30, si lavora i giorni festivi, per cui io... Non ho figli, ma se dovessi avere dei figli e roba così, diventa molto difficile la nostra vita familiare, perché, ripeto, il nostro lavoro è molto duro, ci sono tante ore. Quindi sì. È comunque un tema, quello della famiglia, che ora comincia a essere un tema vero anche per gli uomini. Io ringrazio l'ingegner Mirna Marini, lo ripeto, responsabile della manutenzione di base all'Italia, e ringrazio Gianni Conti, executive chef al Grand Hotel des Îles Borromée. Mi pare che sia evidente che la questione conciliare famiglia e conciliare una carriera molto assorbente, insomma, è un tema che non ha ancora una soluzione. Non pretendevamo di trovarla noi oggi questa domenica, però di parlarne sì. Grazie a voi che ci avete seguito e grazie a Mirna Marini e Gianni Conti. Buona domenica. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Brucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Pianta, la Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rossani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Nessuna è perfetta. Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E continuiamo a parlare di donne che lavorano in ambiti e in professioni considerate, almeno fino a poco tempo fa, soltanto appannaggio degli uomini. E dopo aver sentito i consigli che i nostri esperti hanno dato all'ascoltatrice Giulia, è il momento della nostra coach. Bentornata, buona domenica Maria Serena. Maria, ciao, Serena Maria, Ciambellotti. Grazie. Che consiglio possiamo dare a Giulia che, lo ricordiamo, vuole tenacemente occuparsi di progettazione di automobili nonostante il parere scettico o proprio contrario dei genitori? Che consiglio le daresti? O forse dovremmo dare un consiglio alla madre? Ma diciamo qualche input perché Giulia possa poi insomma gestire la situazione al meglio. Intanto come primo passaggio quello di uscire da quelle che sono un po' dei luoghi comuni, delle generalizzazioni, no? Quindi maschile, femminile, e quindi reperire, e oggi su internet sono facilmente accessibili, dati su quante ragazze scelgono tipologie di studi di carattere scientifico rispetto a anni fa. Faccio un esempio, c'erano dati rispetto alla facoltà di ingegneria che avevano 1 su 4 ragazze che la sceglievano, oggi sono già alcune specializzazioni a 1 su 3, quindi condividere proprio informazioni precise, uscire dalla generalizzazione, quindi dire sì, fino ad oggi in effetti questo campo è stato scelto prevalentemente da uomini, da ragazzi, tuttavia adesso il trend è in crescita, e quindi comunicare alla famiglia la sua piena consapevolezza, no? Il fatto che certo, anche perché è chiaro, le automobili, nel caso di Giulia, è questo il filone che le piacerebbe, poi sono acquistate da donne, e così come ormai anche nel mondo della comunicazione pubblicitaria delle automobili vengono richieste delle competenze femminili, perché se vuoi parlare a un mercato fatto di consumatrici devi avere anche delle comunicatrici donne, così devi avere delle progettiste donne, perché capiscono di più che cosa può piacere o che cosa può essere utile a una automobilista donna. E la seconda cosa che vorrei chiederti, proprio pensando agli argomenti, questo è sicuramente un buonissimo argomento, arrivare con cifre e con dati. Il secondo argomento è, probabilmente i genitori temono che lei possa trovarsi isolata in un ambiente totalmente maschile, quindi subire degli atteggiamenti sessisti. Che cosa può rispondere Giulia ai genitori e anche a se stessa se avesse questo tipo di timori? Non mi pare che dalla mail emerga, ma insomma se ce li avesse. In effetti è possibile che quando ci si addentra in un ambiente di lavoro che tradizionalmente è stato dominato dalla presenza degli uomini si sia discriminate in base al genere, cioè in base al fatto di essere donne, no? Quello che viene un po' definito sessismo. è importante comprendere che questa reazione, che è una reazione automatica, emotiva, emozionale, no? Che arriva proprio dal nostro cervello più antico, dall'amigdala, che parte quindi con una rigidità, quando abbiamo paura ci irrigidiamo, comprendere quindi che questa reazione emotiva non è altro che una difesa più che un attacco, quindi innescare un comportamento più strategico e che vada quindi in direzione di mettersi in contatto empaticamente con l'emozione dell'altro, quindi la famosa frase che a volte si dice discutendo, ma insomma mettiti nei miei panni, fare proprio questo, no? Quindi questo sforzo di mettersi nei panni dell'altro che si sente minacciato nella sua posizione privilegiata o comunque consolidata, e quindi arrivare con disponibilità ad imparare, quindi a mettersi chiaramente quindi in quest'ottica, oppure a condividere il proprio sapere, se invece si arriva con un bagaglio di studi e di informazioni che i colleghi uomini non hanno. E da questo punto di vista quindi si innesca una collaborazione che, in cui l'altro trova un proprio vantaggio. Quindi si esce da questo meccanismo. Qual è il vantaggio che potrebbero trovare i futuri colleghi della giovane Giulia? Cioè, avere una persona competente, appassionata, talvolta può anche mettere un po' a disagio, no? Perché cioè, questa è più brava di me, invade il mio territorio. Proprio per questo è importante arrivare con l'atteggiamento di chi è disposto a condividere le proprie informazioni, il proprio sapere, il proprio know-how, e quindi si dimostra anche un elemento che in una squadra crea una sinergia, quindi la possibilità di far crescere un po' tutto il team, no? Quindi non gelosamente arroccata sulle proprie posizioni, sul proprio sapere, ma pronta ed aperta a condividerle, avendo bene in mente che l'attacco eventuale, l'attacco tra virgolette che eventuale o la chiusura che arriva dall'altro è una reazione emotiva dettata dalla paura di perdere il controllo, perdere l'egemonia, e quindi avere una andare quindi verso l'altro con un atteggiamento più empatico. Grazie alla nostra coach Maria Serena Ciambellotti, grazie per essere stata con noi anche questa domenica. Grazie a voi. A te e a chi ci ha ascoltato finora, buona domenica.